24. La storia. 1930. Nella sua residenza di Chartwell, nel Kent, Winston Churchill sta scrivendo le sue memorie. Ha 55 anni. Churchill ha già combattuto in 5 guerre. Tra queste la Grande Guerra, la Guerra Boera e la battaglia di Omdurman con la cavalleria. Ha già preso parte a 14 elezioni, scritto 14 libri ed è divenuto padre di 5 figli. La sua, senza alcun dubbio, è stata un'esistenza piena. Quello che vi vogliamo proporre oggi in due puntate a Mix 24 è la storia di Winston Churchill, raccontata attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici, ma anche attraverso le sue lettere e la sua autobiografia. Dunque, un Churchill inedito e privato. Per un'intera nazione, Winston Churchill, primo ministro inglese negli anni della Seconda Guerra Mondiale, è stato nella sua ora più delicata una guida e un'ispirazione. Il ricordo del nipote di Churchill, Winston Churchill. Credeva di essere un predestinato. Fin dalla giovinezza, sentiva di avere una missione da compiere, che avrebbe realizzato qualcosa per la storia. Churchill è un aristocratico, discendente direttamente da John Churchill, il primo duca di Marlborough, vincitore della battaglia di Blenheim. Così il ritratto della nipote di Winston Churchill, Celia Sandys, e poi le memorie dello stesso Churchill tratte dalla sua autobiografia My Early Life. Mio nonno venne alla luce in uno dei palazzi più famosi di tutta l'Inghilterra. Già da neonato, si dice che avesse un aspetto piuttosto combattivo, con dei capelli di un rosso molto acceso. Era un bambino tranquillo, molto curioso. La sua passione fin dall'infanzia era la storia, in particolare le battaglie. Di certo sarà rimasto molto colpito dai ritratti a cavallo del nostro antenato sugli arazzi della residenza. Immagino gli abbiano suggerito un senso di grandezza. Poi arrivò il tempo della scuola. Avevo 7 anni. E per gli adulti ero quel che si dice un bambino problematico. Mio nonno agiva d'impulso, senza pensare. Non si curava delle conseguenze. Una volta, negli anni delle elementari ad Ascot, fu punito per aver rubato dello zucchero dalla dispensa. La sua reazione fu di correre verso la stanza del preside della scuola, dove si avventò sul suo cappello, prendendolo a calci fino a ridurlo in pezzi. Molta gente ancora pensa che mio padre fosse un pessimo studente. Al contrario, io credo fosse bravissimo nelle cose che lo interessavano e negligente nelle cose che lo annoiavano. E non credo sia stato l'unico ragazzino nella storia d'Inghilterra ad avere avuto questi problemi a scuola. Era Lady Mary Soames, figlia di Winston Churchill. Il piccolo Churchill è un bambino solitario, sente molto la mancanza dei genitori e cerca in tutti i modi di attrarre la loro attenzione. Ascoltiamo ancora il nipote, Winston Churchill. Sua madre, Lady Randolph Churchill, era molto più affettuosa verso di lui di quanto lo fosse suo padre. Ma neanche lei andava spesso a trovarlo a scuola. Mio nonno scrisse numerose lettere, pregandola di fargli visita, piene di tutta la sua delusione per averla vista molto di rado. Mia amorevole mamma, ti prego di non essere scortese con me. Rispondi alle mie lettere, io sono molto infelice. Ti prego, vieni a trovare il tuo amato figlio. L'unico affetto della sua fanciullezza è rappresentato dalla tata, la signora Everest. Churchill la ama alla follia e la chiama Womeny o Wom. Ha sempre sostenuto che, fino a quando non ebbe 20 anni, fu lei la sua migliore amica. Per lui fu come un'ancora di salvezza. Lei era sempre presente ed era lei che confidava i suoi problemi, le sue ansie. Era l'unica persona che lo amasse profondamente. Ciononostante, Winston ha un'enorme ammirazione verso suo padre. Lord Randolph è stato un leader carismatico del Partito Conservatore, diventando cancelliere dello scacchiere a soli 37 anni. Winston vorrebbe emularne i successi, ma Lord Randolph ritiene il figlio troppo ignorante e pigro per occuparsi di politica. Per questo lo indirizza piuttosto verso la carriera militare. All'età di 18 anni, al terzo tentativo, Winston Churchill viene finalmente ammesso all'Accademia Militare di Sandhurst. Nello stesso periodo, Lord Randolph, a causa di problemi nervosi dovuti probabilmente ad una sifilide avanzata, è costretto a lasciare l'attività politica. Così il padre, Lord Randolph Churchill, scrive a suo figlio. Mio caro Winston, non capisco tutto questo entusiasmo rispetto alla tua missione a Sandhurst. Se non riuscirai a limitare quell'atteggiamento pigro, ozioso ed infruttuoso che ha contraddistinto i tuoi anni di scuola, finirai per condurre un'esistenza infelice, inutile e trasandata. Il tuo affezionato padre, Randolph S. C. È sorprendente come suo padre abbia continuato, per mio nonno, a essere un modello da seguire, nonostante per anni lo avesse trattato come lo scemo di famiglia. Chiunque altro avrebbe reagito con un esaurimento nervoso o si sarebbe sentito giustificato ad allontanarsi definitivamente dai genitori. Al contrario, la loro durezza nei suoi confronti non fece che rinforzare in lui la determinazione a riuscire nella vita. Mio padre morì il 24 gennaio. Quel giorno morirono anche tutti i miei sogni di lavorare al suo fianco e sedere con lui sui banchi del Parlamento, ma nella mia mente restò per sempre il desiderio di continuare sulla sua strada e di onorare la sua memoria. 6 mesi dopo, morì anche la signora Everest. Per mio nonno fu un colpo terribile. In pochi mesi aveva perso 2 delle figure più influenti della sua vita. Da quel momento, cercò un nuovo rapporto con la madre. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24 con la storia di Churchill. Dopo la morte del padre nel 1895, Winston cerca un appoggio nella figura della madre. Jenny Jerome, Lady Churchill, una ricca americana, sfrutta tutte le sue influenti amicizie per aiutare la scalata e al successo del figlio Winston. Per lui è l'inizio di una lotta senza scrupoli per raggiungere i propri obiettivi. Lui stesso, del resto, dichiara: è un'epoca dura e dobbiamo farci largo da soli. Mio nonno era deciso a guadagnarsi una fama personale, non come il figlio di Randolph, ma come Winston Churchill. Ecco perché iniziò a cercare la gloria in guerra. Settembre 1898. Winston Churchill ha 23 anni. Come giornalista soldato prende parte alla campagna inglese per la conquista del Sudan. Come corrispondente del Morning Post descrive l'ultima e più grande impresa della cavalleria britannica. I reportage che Churchill invia dalle zone di guerra ne fanno un giornalista famoso, ma non gli conquistano quel successo politico che lui cerca. Nel giro di un anno, però, il destino gli offre una nuova opportunità. La guerra contro i Boeri, in Sudafrica. Sempre a corto di denaro, Churchill parte come inviato del Morning Post. Si imbarca a Southampton, armato di una bussola, un telescopio, 6 bottiglie di porto, 24 di vino e 18 di whisky. Non appena mette piede in Sudafrica, Churchill decide di unirsi ad una missione di ricognizione su un treno dell'esercito, al di là delle linee nemiche. È un'operazione assai rischiosa, ma Churchill, alla ricerca di gloria, non si lascia intimorire. I boer ritendono un agguato. Molti soldati inglesi restano feriti, tra questi anche il comandante in capo del convoglio. Churchill deve prendere il controllo dell'operazione. Dalle descrizioni fatte dai presenti, risulta che mio nonno prese il comando delle operazioni ostentando una certa calma, con il suo solito sigaro in bocca. Sembrava essere certo che non sarebbe mai stato neanche sfiorato dalle migliaia di proiettili che volavano tutto intorno. Un giovane soldato così lo descrive in una lettera al padre. È di certo l'uomo più folle e coraggioso che abbia mai incontrato. Churchill riesce a portare in salvo moltissimi feriti, ma deve affrontare all'improvviso l'arrivo di molti boeri a cavallo. Così scriverà nelle sue memorie My Early Life. Non avevo alternative. Allora alzai le mani e mi arresi come prigioniero di guerra. Lo stesso Napoleone una volta ebbe a dire: a un uomo solo e disarmato può essere perdonata la resa. Ma non avrei mai accettato di essere prigioniero a lungo. Dovevo trovare il modo di scappare. Attraverso le latrine della prigione, Churchill salta il muro di recinzione. È fuori, libero. Ricercato, uomo inglese di 25 anni. Altezza circa 1,75. Capelli rossicci, baffi appena accennati. Voce nasale. Non riesce a pronunciare correttamente le S. Non sa una parola di olandese. Per 10 giorni Churchill si dà la macchia. Alla fine riesce a superare il confine con il Mozambico. Diventa così l'inglese più famoso in Africa. È un eroe in patria. Dopo tanti anni Churchill riesce a trasformare la fama personale in trionfo politico. Alle elezioni politiche del 1900 viene eletto nelle file dei conservatori nel collegio di Holden. A 26 anni siede finalmente a Westminster, nel collegio appartenuto a suo padre, così il nipote Winston Churchill. He wasn't a natural... Mio nonno non è mai stato un grande oratore. Doveva sempre prepararsi i discorsi meticolosamente e poi provare a impararli a memoria. E io sono convinto che è proprio per quella sua meticolosità che alla fine i suoi discorsi sono sempre stati grandiosi. Come è noto, aveva anche un difetto di pronuncia. Non pronunciava bene le S. 1904. Churchill ha 29 anni. È impaziente di ottenere una visibilità personale, ma è in disaccordo con la strategia del Partito Conservatore. Il 31 maggio, ostentando un atteggiamento di rivolta, fa il suo ingresso in aula, si inchina davanti al presidente dell'aula, si rivolge verso i banchi dei liberali e va a sedersi accanto al loro leader riformista, David Lloyd George. Churchill ha abbandonato le fila dei Tories. David Lloyd George comprese subito la lungimiranza di Winston. In genere, l'immagine che si ha di Churchill è quella di un uomo riflessivo, ponderoso, una roccia a cui aggrapparsi per difendere la libertà. È un'immagine vera, ed è forse questo che l'ha reso grande. Da giovane, però, Churchill era estremamente ambizioso, un vulcano pieno di energia, di idee, e per lui il Partito Liberale rappresentava la possibilità di realizzare quelle idee. Era la voce di Robert Lloyd George, nipote di David Lloyd George, primo ministro inglese dal 1916 al 22. Siamo nel 1908 in Inghilterra, i liberali conquistano la maggioranza. Con Lloyd George, Churchill mette a punto delle riforme radicali. Dai racconti della signora Everest, la sua governante, Winston ha conosciuto la sofferenza dei poveri del suo paese. Decide quindi di apportare dei cambiamenti al mondo del lavoro e introduce il salario minimo. È il primo germe di quello che sarà poi il welfare state. Nella primavera del 1909 Churchill si innamora di una liberale, Clementine Osier, una donna brillante e indipendente, che appartiene a una famiglia nobile ma caduta in disgrazia. Non appena le sedute parlamentari vengono sospese, Churchill la invita a Blenheim. Durante una passeggiata tra i giardini della tenuta, Winston e Clementine vengono sorpresi da un violento temporale e si rifugiano così nel tempio di Diana. La ragazza siede in silenzio. Così il racconto della figlia. Mia madre si stava chiedendo che intenzioni avesse questo giovane. Si farà avanti o non ne avrà il coraggio? Poi notò uno scarafaggio che avanzava verso di lei e si disse: se quella bestia entrerà in quella crepa del pavimento prima che si sia dichiarato, vuol dire che non lo farà mai. E proprio in quel momento mio padre le fece la proposta di fidanzamento. Nel suo diario Churchill annota: da quando mi sono sposato ho sempre condotto una vita felice. Finora Churchill ha raggiunto tutti gli obiettivi che si è prefissato. A 33 anni è già ministro di un governo liberale e ai suoi occhi è l'uomo più giovane del paese ad avere e meritare un vero potere. 1910. Winston Churchill diviene ministro degli interni. Ma il movimento delle suffragette lo mette di fronte ai limiti del suo liberalismo, provocando in lui una reazione istintiva di stampo decisamente conservatore. Churchill non tollera la violenza delle suffragette. Nel novembre del 1910, quando il movimento manifesta a Westminster, Churchill viene ritenuto responsabile per la brutalità della polizia nei loro confronti. Così Richard, figlio di Sylvia Pankhurst, militante del movimento delle suffragette. Mia madre restò sconvolta dall'atteggiamento militarista e sciovinista di Churchill. Lo vedeva solo come un politico ambizioso ed aggressivo, non come qualcuno sinceramente motivato da profonde convinzioni. Per lei era un uomo privo di buon senso, che non aveva una visione umana della politica. Due mesi più tardi, Churchill si spinge ancora più oltre. La polizia ha circondato una casa a Sydney Street, nella zona orientale di Londra. Come ministro dell'interno, Churchill ordina di fare irruzione e vuole a tutti i costi presenziare anche lui. All'interno del suo partito crescono i dubbi sulle sue decisioni. Un compagno di partito dichiara: sotto la pelle liberale c'è quella aristocratica. È nascosta, ma c'è sempre. Ciò di cui Churchill ha bisogno è una posizione che soddisfi la sua naturale tendenza al conflitto. Ottobre 1911. Churchill diventa primo lord dell'ammiragliato. Il nostro principale scopo è il mantenimento della supremazia navale. Su di essa non si fonda solo l'impero, ma le nostre stesse vite e la libertà che abbiamo guadagnato circa un migliaio di anni fa. La minaccia di una guerra con la Germania si fa sempre più vicina. Churchill vuole allora rimodernare la flotta e, sapendo quanto nella guerra moderna sia determinante l'aviazione, istituisce la Royal Naval Air Service. E poiché non gli basta esserne il fondatore, ritiene necessario divenire anche pilota. Molti tra i suoi ammiragli trovano deplorevoli i suoi atteggiamenti pseudo-napoleonici, ma al contrario Churchill definisce quel periodo i miei anni d'oro. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. È l'agosto del 14. Scoppia la prima guerra mondiale. Churchill e la sua flotta sono pronti, così scrive nelle sue memorie. Tutto sembra tendere verso la catastrofe e la fine. Al contrario, io sono felice ed emozionato. Non è terribile avere questi sentimenti? Ma la guerra ben presto si impantana sulle trincee francesi. Nel tentativo di uscire da una situazione di stallo, Churchill decide di aggirare la Germania. Per questo spinge per un attacco navale alquanto rischioso alla Turchia, alleata dei tedeschi, nello stretto dei Dardanelli, presso Costantinopoli. a Lloyd George confida. Se riuscirò a compiere l'impresa dei Dardanelli, sarò ricordato come il più grande uomo d'Europa. Ma il primo ammiraglio Fisher nutre forti dubbi rispetto al piano di Churchill. Caro Winston, questa storia dei Dardanelli ti sta portando alla follia. Non riesci a pensare ad altro. Dannati Dardanelli, saranno la tua tomba. Era la lettera di Lord John Fisher a Winston Churchill. E Fisher ha ragione, la marina inglese subisce gravi perdite. Per risollevare le sorti dell'operazione, Londra deve allora inviare l'esercito. Il risultato è il terribile massacro di Gallipoli. Più di 42.000 uomini tra inglesi e alleati perdono la vita. Così Robert Lloyd George, nipote del primo ministro inglese. Lloyd George sapeva che Churchill aveva una grande capacità strategica ed era d'accordo con lui sull'importanza di Gallipoli. Allo stesso tempo, però, si rendeva conto che a volte Churchill sbagliava le sue valutazioni. Aveva la giusta visione d'insieme, ma la capacità di giudizio è un'altra cosa. Churchill, impulsivo ed ostinato, viene ritenuto il responsabile del disastro dei Dardanelli. Nel maggio del 1915 viene rimosso dal suo incarico all'ammiragliato. Indubbiamente per mio padre fu un durissimo colpo, forse il peggiore di tutta la sua carriera politica. Per lui fu il momento più basso. Molti pensavano ed altri speravano che Churchill fosse finito. In un momento in cui ogni singola fibra del mio essere fremeva per entrare in azione, sono stato costretto ad essere un semplice spettatore di questa tragedia. Churchill è prima di tutto un soldato. Lui vuole combattere. Nel giro di 6 mesi rassegna le sue dimissioni dal governo e parte alla volta delle trincee, nelle Fiandre. Al fronte, Churchill arriva con una scorta di brandy, di sigari e un bollitore di rame. Nelle Fiandre, Churchill viene assegnato al comando del 6° battaglione dei fucilieri scozzesi. Il suo aiutante, il capitano Dewar Gibb, ricorda così il suo arrivo. Non appena si sparse la voce del suo arrivo, gli uomini cominciarono a protestare. Churchill dovette allora ingraziarseli uno ad uno, ma alla fine li aveva conquistati tutti. Nel 1916 la maggior parte dei soldati inglesi è scoraggiata, in condizioni molto difficili. Churchill riesce rapidamente a riaccendere gli animi, tenendo lezioni su come si costruiscono e gestiscono le trincee. Il suo secondo obiettivo è l'igiene e la salute. Churchill dichiara una guerra personale ai pidocchi. Con il suo entusiasmo conquista il cuore dei suoi uomini. Alla moglie Clemmy, Churchill dichiara di sentirsi felice in trincea come non lo è stato per mesi. L'unica cosa che gli manca è l'eccitazione del dibattito parlamentare. Maggio 1916. Churchill fa ritorno in Inghilterra, pronto per ricostruire la sua carriera politica. Ma ormai sono pochi ad avere fiducia in lui. Per un anno Churchill è costretto a rimanere fuori dalla scena politica. Poi, finalmente, il suo vecchio alleato, Lloyd George, divenuto primo ministro, lo nomina ministro degli armamenti. Ascoltiamo Robert Lloyd George, nipote del primo ministro. Io non credo che il mio bisnonno lo abbia riabilitato solo perché erano amici. Credo semmai che uno come Churchill fosse meglio averlo al proprio fianco, piuttosto che come avversario. Churchill era un alleato energico, vigoroso, uno su cui poter fare affidamento in un consiglio di guerra. Credo che all'epoca Lloyd George, così come poi nel 1940, trovasse in lui l'elemento meno disfattista, un uomo che portava entusiasmo, sostegno, insomma, il miglior collaboratore che si potesse avere in tempo di guerra. Alla fine della guerra contro la Germania, Churchill è ancora più bellicoso. Quando apprende che in Russia è scoppiata la rivoluzione e che lo zar è stato ucciso con tutta la sua famiglia, si sente ribollire il sangue. Churchill vuole entrare di nuovo in guerra, questa volta contro i bolscevichi. Forse Churchill non aveva tutti i torti a voler stroncare la rivoluzione bolscevica sul nascere, ma era appena finita una guerra e l'Inghilterra non aveva nessuna voglia di cominciarne un'altra, tantomeno il mio bisnonno. Lui diceva che con Churchill il problema era sempre lo stesso. Winston tira fuori tutte le sue cartine e comincia a spiegarti quello che succede nel mondo. Nel 1915 ha tirato fuori la cartina della Turchia e nel giro di poco tempo ci siamo ritrovati a Gallipoli. Adesso insiste con la mappa della Russia e solo Dio Dio sa dove ci troveremo. Fu in quel periodo che Lloyd George capì che Churchill era un conservatore prestato ai liberali. 1922. Il governo di Lloyd George cade. Churchill, ristabilitosi da un'appendicite, partecipa alle elezioni per conquistare il seggio di Dundee. È un uomo ferito, che tuttavia non ha perso nulla della sua aggressività. I suoi avversari lo definiscono un avventuriero pericoloso, viscido e doppio giochista. Sconfitto alle elezioni, Churchill non riesce a conquistare il seggio. Per la prima volta in 22 anni dovrà restare fuori dal Parlamento. In un batter d'occhio mi ritrovai senza un ufficio, senza un seggio, senza un partito e senza l'appendice. 1922. Churchill acquista Chartwell, una tenuta nei pressi di Westerham. Ormai estromesso dall'attività politica, trascorre 2 anni a dedicarsi al suo rifugio personale nel Kent. 1924. In Gran Bretagna si vota di nuovo. A Downing Street tornano i conservatori. I liberali perdono qualunque forza politica, ma per Churchill sono i conservatori ormai l'unica forza in grado di fermare l'ascesa al potere dei socialisti nel mondo. Churchill si candida nel collegio di Epping e vince. Questa volta, però, tra le fila dei Tories. Chiunque può tradire, ma ci vuole una certa capacità per tradire una seconda volta. Erano le parole di Churchill in My Early Life. Il primo ministro Stanley Baldwin chiede a Churchill di essere il suo cancelliere dello scacchiere. È lo stesso incarico ottenuto dal padre al culmine della sua carriera, 40 anni prima. Churchill si trova allora di nuovo al centro della vita politica. 1926. Nelle miniere di carbone gli operai sono in rivolta. I sindacati indicano uno sciopero generale. Churchill solidarizza con i poveri minatori e sostiene le loro richieste per un salario più adeguato. Ma a lui lo sciopero generale ricorda la rivoluzione bolscevica. Per minare l'efficacia dello sciopero vengono convocati dei volontari per tenere in piedi il sistema dei trasporti. Churchill ordina il dispiegamento di truppe, carri armati e mitragliatrici. A Stanley Baldwin dirà: un po' di spargimento di sangue non provocherà alcuno scandalo. Nel giro di 10 giorni lo sciopero generale cessa. Il comportamento di Churchill, nonostante da principio abbia tentato di migliorare i salari dei minatori, gli guadagna l'odio dei socialisti in tutto il mondo, che vedono in lui l'incarnazione della peggiore politica dei conservatori. Per i successivi 4 anni, Churchill è sempre più isolato e visto con sospetto. Nel 1931 non viene chiamato a far parte del governo di Ramsay MacDonald. Durante un viaggio di lavoro negli Stati Uniti ha un incidente dove per poco non rimane ucciso. Provato dall'esperienza, esausto, estromesso dal governo, Churchill si rifugia a Chartwell. Winston è in uno stato di depressione totale. Si riprende molto lentamente e non fa che ripetere: vorrei che non fosse mai successo. Nel 1932 Churchill ha 57 anni. Il suo destino in politica sembra segnato. Eppure, di fronte alla minaccia rappresentata da Hitler, Churchill ritrova tutto il suo istinto bellicoso. Mio padre vagava nel deserto della politica senza trovare ristoro. Non era più in linea con il suo partito e aveva abbandonato anni prima il Partito Liberale. Papà era un vero conservatore, ma si trovava molto a disagio con le linee del partito. Molti poi tra i Tories non lo sopportavano più. Ma Churchill trova una nuova arena in cui gettarsi a testa bassa: in India, l'impero britannico, e alle prese con una difficile sfida: la crescita del movimento indipendentista. Così scriverà nel suo libro intitolato India. È impossibile fare delle concessioni agli orientali. Se pensano di non aver ottenuto quello che chiedono, diventano subito violenti. Nei confronti di Gandhi, una delle figure emergenti in India, Churchill usa parole sprezzanti. È disgustoso che l'impero britannico debba avere a che fare con un avvocatucolo sedizioso, una specie di fakiro mezzo nudo della nota specie orientale. Ma le sue posizioni reazionarie non sono molto popolari, neppure tra i suoi vecchi amici del Partito Liberale, come ad esempio Archie Sinclair. A parlarcene è il nipote di Sinclair, Lord John Thurso. Sono convinto che Churchill abbia pensato che il colonialismo fosse la vera chiave del successo inglese nel mondo. Churchill riteneva fondamentale mantenere l'impero e, di conseguenza, combattere per mantenere l'India a tutti i costi. Fu uno degli errori che commise nella sua vita. E il 1935, con l'Indian Act, l'Inghilterra, seppure con molte limitazioni, concede all'India l'autogoverno. Churchill ha perso un'altra battaglia e si ritira nuovamente nella sua residenza a Chartwell, ma neanche qui trova la serenità di cui ha bisogno. La moglie Clementina è in crociera in Estremo Oriente per 4 mesi. Per Churchill la separazione è insopportabile. Le scrive così: mia amata Clemmy, se guardo la cartina e vedo quanto lontana sei da me, ho un sussulto. Davvero non vedo l'ora che ritorni a casa. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando l'intensa vita politica di Winston Churchill. Nel dicembre del 1936 il Regno Unito è scosso da una grande crisi nazionale. Il re Edoardo VIII ha deciso di sposare Wallis Simpson, una donna americana divorziata. Churchill è di nuovo al centro della scena politica. Così la figlia Lady Mary Soames. Mio padre ebbe subito paura per la reazione dell'impero. Lui non pensava mai solo alla Gran Bretagna, ma a tutto il Commonwealth. Era certo che nessuno avrebbe mai accettato Wallis Simpson come regina. Per lui, inoltre, il re doveva in ogni modo rimanere sul trono. Non era ammissibile che abdicasse. Sarebbe stato un duro colpo per tutte le istituzioni dell'impero. Leale alla corona, ma anche di indole romantica, Churchill sostiene il re in Parlamento, ma ancora una volta viene isolato e tacitato. Toccherà a lui aiutare il re Edoardo VIII a scrivere il discorso di abdicazione, trasmesso alla radio l'11 dicembre del 1936. Mi è impossibile continuare a sopportare il peso di questa enorme responsabilità senza l'aiuto della donna che amo. Churchill, ascoltando il discorso alla radio, è in lacrime. L'impero è stato minacciato in India. Ora è la monarchia stessa ad essere scossa alle fondamenta. Ma un altro pericolo bussa alle porte della Gran Bretagna. A poche ore di volo da Londra c'è un paese di 70 milioni di abitanti istruiti, industriosi e pronti al sacrificio. I suoi figli sono educati fin dalla giovinezza a combattere per il proprio paese. Per loro la guerra è il più glorioso degli esercizi, la morte in battaglia il più nobile degli onori. Così scrive Churchill nel suo libro sulla Seconda Guerra Mondiale. Incurante di tutti gli insuccessi riportati in politica negli anni 30, Churchill continua a dare l'allarme. Scrivendo, il 9 marzo del 1936, Adolf Hitler è una minaccia per tutta l'Europa. La libertà della Germania è stata profanata, i tedeschi umiliati e sconfitti. Nel giro di mesi le nostre spalle saranno libere dal peso dell'infamia. Il 12 gennaio del 1938 Hitler pronuncia le parole che abbiamo appena sentito. Domenica 13 marzo del 1938 la Germania annette l'Austria. Il 15 settembre il primo ministro inglese Neville Chamberlain giunge a Monaco per negoziare con Hitler. Chamberlain cerca di trovare un accordo col Führer, dando il suo assenso all'occupazione dei territori cecoslovacchi di lingua tedesca. Così la figlia di Churchill. L'opinione pubblica inglese di fronte a questo accordo con i nazisti ebbe un moto di disgusto. Non potevamo accettare frasi del tipo «pace nel nostro tempo, pace con onore». Sembrò tutto un enorme tradimento, una vergogna. 15 marzo 1939. Hitler occupa il resto della Cecoslovacchia. I timori di Churchill divengono tragica realtà. Il parlamentare Brendan Bracken. Nessuno ha mai avuto una visione più lungimirante di Churchill. La sua capacità di prevedere i rischi ed i pericoli delle dittature è stata la parte migliore della sua vita così travagliata. Settembre 1939, la Germania invade la Polonia. Churchill viene immediatamente chiamato da Chamberlain. Il primo ministro lo vuole nel consiglio di guerra. Il giorno dopo, però, lo stesso Chamberlain sembra esitare. Churchill gli scrive addolorato. Non l'ho più sentita da venerdì. Giorno in cui avevo inteso che mi avrebbe voluto accanto quale collaboratore. Non riesco davvero a capire cosa sia successo da quel momento ad oggi. Chamberlain ha già inviato 2 ultimatum a Hitler sperando di evitare la guerra. Ma dalla Germania non arriva nessuna risposta. È stato dato l'annuncio che il 3 settembre il primo ministro parlerà alla nazione via radio alle ore 11:15. Devo informarvi che fino ad ora non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ciò significa che da questo momento il nostro paese è in guerra con la Germania. Così scrive Churchill nel suo libro sulla Seconda Guerra Mondiale. Di quella mattina del 3 settembre 1939. Aveva appena finito di parlare quando cominciai a sentire un suono che di lì in poi mi sarebbe divenuto familiare. Era la mia immaginazione che vedeva rovina, stragi, distruzione ed esplosioni di ogni genere. Edifici rasi al suolo, macerie, polvere. Avevamo forse dimenticato quanto sia terribile subire attacchi aerei. Dopo 10 anni di totale inattività, Churchill è di nuovo reintegrato nel governo. Per la seconda volta viene nominato primo lord dell'ammiragliato. Nei successivi 9 mesi, Churchill ricostruisce la forza ed il morale della Royal Navy. Aprile 1940 la marina inglese lancia una coraggiosa offensiva contro la Norvegia occupata dai nazisti. Sarà un nuovo insuccesso, simile a quello dei Dardanelli nel 1915. La campagna di Norvegia si rivela un completo fallimento. Churchill è il primo responsabile, questa volta però agli occhi dell'opinione pubblica inglese egli diventa il coraggioso mastino inglese, mentre Chamberlain appare come un leader asservito e compiacente. L'ascesa di Churchill è direttamente proporzionale alla caduta di Chamberlain, così Neville Chamberlain nel discorso radiofonico del 1 maggio del 40. Sua Maestà, a testè affidato al mio collega ed amico Winston Churchill il compito di formare una nuova amministrazione su base nazionale. E fu così che la sera del 1 maggio, alla vigilia di una memorabile battaglia, mi venne affidato il posto di maggior responsabilità. Mi fu conferita l'autorità di comandare su tutto. Mi sembrò di camminare al passo con il mio destino e che la mia intera vita fosse stata una preparazione a questo momento. Churchill ha 65 anni. Per tutta la vita ha desiderato essere l'uomo della storia. Ora la storia è pronta a incontrarlo. Il racconto sulla vita di Churchill riprende domani su Mix 24.